animazioni. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Thank you. Radiazione diretta d'azione, venerdì 24 ottobre, oggi giorno di lettura ma senza Marcello. Non c'è Marcello. Ci sono io. C'è lei, c'è sempre lei. Ormai c'è sempre lei, non c'è più Marcello. No, Marcello no, ci sarà, tornerà. Non ci sarà nemmeno lunedì, ma si cambieranno per la prossima settimana ancora una volta i giorni per la lettura, quindi lunedì controinformazione, le riflessioni, qualche provocazione e la musica. E poi il venerdì con Marcello si ritorna alla lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Spiasecki. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, materiale da far pubblicare sul sito di radiazione, ma anche consigli per le letture che facciamo il lunedì. Fino ad ora non ce ne sono stati, abbiamo sempre scelto io e Marcello, speriamo che qualcuno, c'è gente che ascolta le letture perché lo sappiamo, non sappiamo chi, però sappiamo che c'è gente che ascolta le letture e quindi ci farebbe piacere che se ci arrivasse qualche consiglio su qualche libro anche che noi non conosciamo, quindi lo ricordo, non testi anarchici ma libri di narrativa, ma comunque con tematiche diciamo affini alle tematiche trattate sul sito di radiazione, sito di radiazione che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso podcast nella categoria ascolta le dirette d'azione, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina di download, là ci trovate un po' tutto il materiale che i compagni mettono a disposizione, manifesti, cd, libri, opuscoli, tutto. Allora, dicevo, oggi comunque faremo giornata di lettura, una lettura più particolare rispetto a quella dei lunedì, che oggi no, diciamo che oggi è lunedì, ma è venerdì, ma un lunedì con le nuvole. Ovviamente con le nuvole, si fa la lettura e si legge l'intervista ad Alfredo Cospito, fatta dai compagni greci delle CCF, la cospirazione delle cellule di fuoco. Era una cosa che si vuole fare già da un po' di tempo. Ora c'ho la compagnia, l'appoggio. Perché sono di lettura un bel po' di pagine che potete trovare anche nella sezione download da scaricare sotto forma di opuscolo. Quindi ora ci ascoltiamo un brano, Time is Coming Insurrection, loro sono Signal Out 42, e poi dopo si torna qui e si inizia la lettura dell'intervista ad Alfredo Cospito. Time is coming. Allora, come abbiamo detto all'inizio, l'intervista fatta dai compagni del CCF ad Alfredo Cospito inizia con il titolo di intervista del CCF a me medesimo. Quindi questa è l'introduzione all'intervista. Prima di rispondere alle vostre domande voglio sottolineare che quel che dirò è la mia verità. Uno tra i tanti punti di vista, sensibilità e sfumature individuali all'interno di quel crogiolo di pensiero ed azione che va sotto il nome di Fai Free. Federazione informale che, rifiutando qualsiasi tentazione egemonica, rappresenta uno strumento, un metodo di una delle componenti dell'anarchismo d'azione. Anarchismo d'azione che solo quando si fa informale, non costringendosi in strutture organizzative, specifiche, formali, di sintesi, quando non è all'assillante ricerca di consenso, quindi rifiuta la politica, si può riconoscere in un più largo, caotico universo che va sotto il nome di Internazionale Nera. Per capirci meglio, la Fai Free è una metodologia d'azione che solo una parte delle sorelle e fratelli dell'Internazionale Nera praticano. Non un'organizzazione, né tantomeno una semplice firma collettiva, ma uno strumento che tende all'efficienza, che ha come obiettivo quello di rafforzare i nuclei e i singoli compagni e compagne d'azione attraverso un patto di mutuo appoggio su tre punti: solidarietà rivoluzionaria, campagne rivoluzionarie e comunicazione tra gruppi e singoli. Passiamo alla spiegazione di questi tre punti. Solidarietà rivoluzionaria. Ogni gruppo d'azione della FAI si impegna a dare la propria solidarietà rivoluzionaria ed eventuali compagni arrestati o latitanti. La solidarietà si concretizza soprattutto attraverso l'azione armata, attacco a strutture e uomini responsabili della detenzione del compagno. Non sussiste l'eventualità di mancata solidarietà perché verrebbero meno i principi su cui il vivere e il sentire anarchico si basano. Per appoggio nella repressione non si intende ovviamente quello di carattere di assistenza tecnico-legale. La società borghese offre sufficienti avvocati, assistenti sociali o preti perché i rivoluzionari possano occuparsi d'altro. Campagne rivoluzionarie. Ogni gruppo o singolo, una volta iniziata una campagna di lotta attraverso azione e conseguente comunicato, verrà seguito dagli altri gruppi singoli della federazione anarchica informale secondo i propri tempi e modalità. Ogni singolo o gruppo può lanciare una campagna di lotta su obiettivi particolari semplicemente promuovendo il progetto attraverso una o più azioni accompagnate dalla firma del singolo gruppo d'azione a cui si aggiunge il richiamo della federazione nella sigla. Se una campagna non viene condivisa, se ritenuto necessario, la critica si concretizzerà attraverso le azioni e comunicati che contribuiranno a correggerne il tiro o a metterla in discussione. Questi sono i primi due punti che ci spiega Alfredo, le campagne rivoluzionarie e solidarietà rivoluzionaria. C'è il terzo, comunicazione tra gruppi e singoli, ma ci prendiamo una pausa perché la lettura è bella lunga e quindi è meglio spezzarla. Poi alla fine del terzo punto, al limite, si può discutere su questi tre punti, se ce n'è da discutere, se c'è da aggiungere, se c'è da aggiungere vabbè, o commentare su qualcosa. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Eteri Tenegeraetto, il brano è Black Flag e poi dopo si torna qui con il terzo punto. The state to further enhance their power and the real criminals get get away. Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags. Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? Come on. What they call law is used to restrain us ordinary citizens who are opposed to this. Your cyber attacks are crimes. If the government dislikes you, but are perfectly okay if they unleash them. They pursue a whistleblower. Why criminal politicians get away? Do you want it all? Do you want it all? You have the full weight of law come crashing down upon you, so you don't resist. Surveillance, goons, force us to be silent. They kill the careers of journalists, so no one can resist. Are you ready to testify? Are you ready to testify? What's all going on? And it's the rich who are waging it. They try to destroy anyone who's a threat to their power, playing for keeps. They want it all. Do you want it all? Are you ready to testify? Are you ready to testify? Are you ready to testify? You got 2 seconds. Are you ready to testify? Questi erano Eddie Teenage Riot con il brano Black Flag. Ora andiamo a leggere il terzo punto dopo la solidarietà rivoluzionaria, le campagne rivoluzionarie e la volta di comunicazione tra gruppi e singoli. I gruppi di azione della Federazione Anarchica Informale non sono tenuti a conoscersi tra di loro. Non sussiste la necessità, ove altrimenti si rischierebbe di offrire fianco alla repressione, ai leaderismi dei singoli e alla burocratizzazione. La comunicazione tra gruppi singoli avviene essenzialmente attraverso le azioni stesse e attraverso i canali informativi di movimento, senza la necessità di conoscenza reciproca. Allora, questo patto di mutuo appoggio di fatto scavalca l'assemblea, i suoi leader, gli specialisti della parola, della politica e di meccanismi autoritari che si innescano anche in ambiti anarchici quando l'assemblea diventa organo decisionale. Quello che l'Internazionale Nera nei prossimi anni dovrebbe fare è riannodare quel filo nero che si era spezzato da tempo, un filo che lega l'anarchismo di ieri, che praticava la propaganda del fatto, figlia del Congresso Internazionale di Londra del 1881, all'anarchia d'azione di oggi, informale, antiorganizzatrice, nichilista, anticivilizzatrice, antisociale. Nicola ed io, unici componenti nel nucleo Olga, non conosciamo di persona gli altri fratelli e sorelle della FAI. Conoscerli vorrebbe dire vederli rinchiuso tra le quattro mura di una cella. Ci siamo convinti dell'utilità della FAI FRI grazie alle parole, rivendicazioni e alle azioni dei fratelli e delle sorelle che ci hanno preceduti. Le loro parole, sempre confermate dall'azione, ci hanno regalato l'indispensabile costanza senza la quale un qualsiasi progetto si riduce nell'era del virtuale in inutili, sterili parole al vento. Avevamo bisogno di una bussola per orientarci, uno strumento per riconoscere e smascherare coloro dell'anarchia hanno fatto una palestra per parolai, un filtro per distinguere le parole vuote da quelle portatrici di realtà. Abbiamo trovato in questa nuova anarchia, nelle sue rivendicazioni e nelle sue conseguenti campagne rivoluzionarie, una prospettiva di attacco reale che amplifica le nostre potenzialità distruttive, salvaguarda la nostra autonomia di individui ribelli ed anarchici e ci dà la possibilità di collaborare e di colpire insieme senza conoscerci direttamente. Nessun tipo di coordinamento può essere incluso nella nostra progettualità. Il coordinamento presupporrebbe necessariamente la conoscenza all'organizzarsi tra le sorelle e i fratelli dei diversi nuclei. Tale coordinamento ucciderebbe l'autonomia di ogni gruppo e singolo o singola. Il gruppo più efficiente, più preparato, più coraggioso, più carismatico inevitabilmente avrebbe il sopravvento riproducendo gli stessi meccanismi deleteri dell'assemblea. Alla lunga si ripresenterebbero leaders, ideologhi, capi carismatici e si andrebbe verso l'organizzazione, la morte stessa della libertà. Qualcuno potrebbe contestare che anche in un gruppo di affinità, in un nucleo FAI, potrebbe annidarsi un leader carismatico o un capo. Nel nostro caso il danno però verrebbe limitato perché tra i nuclei non vi è conoscenza diretta, la cancrena non potrebbe estendersi. Il nostro essere anti-organizzatore ci preserva da questo rischio. Per questo motivo bisogna affidarsi alle campagne rivoluzionarie che escludono la conoscenza tra gruppi e singoli, uccidendo così qualsiasi barlume di organizzazione. Mai bisogna confondere le campagne con il coordinamento, questa è l'informalità, questa è l'essenza, secondo me, della nostra progettualità operativa. Sia chiaro che quando parlo di gruppo di affinità o nucleo d'azione posso far riferimento ad un solo individuo o ad un gruppo di affinità numeroso. Non bisogna farne una questione di numeri. È chiaro che la singola azione viene pianificata tra i vari componenti del gruppo, in quel caso non si può parlare di coordinamento, ma tale pianificazione deve estendersi agli altri gruppi FAI FRI. Al di fuori del proprio gruppo bisogna limitarsi a comunicare unicamente attraverso le campagne rivoluzionarie e le conseguenti azioni. La nostra conoscenza della FAI FRI deve sempre rimanere parzialissima, limitata ai nostri affini. Della FAI FRI dobbiamo conoscere solo le zampate, i graffi, le ferite apportate al potere. Mortale sarebbe creare qualcosa di monolitico o strutturato. Ognuno di noi deve evitare equivoci o fascinazioni egemoniche. L'organizzazione limiterebbe enormemente le nostre prospettive, invertendo il processo dal qualitativo al quantitativo. Nell'azione di uno, la volontà di un altro si rafforza dando ispirazione. Le campagne si diffondono a macchia di leopardo. Mille teste contro il potere infuriano, impossibile mozzarle tutte. Sono proprio queste azioni, accompagnate dalle parole e rivendicazioni, a permetterci a colpo sicuro di escludere i teorici più amanti della parola, dandoci la possibilità di rapportarci unicamente con chi vive nel mondo reale, sporcandosi le mani, rischiando sulla propria pelle. Quelle parole sono le uniche che contano veramente, le uniche che ci permettono di crescere e di evolverci. Le campagne rivoluzionarie sono lo strumento più efficace per incidere, fare male dove più nuoce, dandoci la possibilità di diffonderci in un mondo come un virus portatore di rivolta e anarchia. E con questo abbiamo letto già tutti e tre i punti, che sono tratti dalla rivendicazione all'attentato a Prodi, all'epoca presidente della Commissione Europea, il 21 dicembre 2003, tratto dal questo caso Alfredo dice che l'ha preso dal Il Dito e la Luna, un opuscolo che è uscito all'epoca dopo gli arresti e dopo l'operazione Cervantes, che racconta un po' tutta l'operazione, tutti gli attacchi avvenuti dalla FAI FRI fino a quel momento. Un opuscolo molto interessante che racconta bene un po' tutta la storia. Allora, abbiamo detto, cioè, i tre punti, poi dopo Alfredo nel terzo punto ci ha incluso la sua visione della federazione anarchica informale, della fronte rivoluzionario internazionale FAI FRI. spiegandole più che spiegandolo, ribadendo anche quello che c'era scritto all'epoca nel comunicato uscito dalla FAI con le varie firme di tutti i gruppi che fino ad ora, fino a quel momento, parliamo sempre del 2003, si erano firmate con una sigla, qualche volta è stata ripetibile, come cioè un paio di loro sono state ripetibili, altre no, in cui spiegavano un po' tutto come che idea avevano di questa federazione anarchica informale. Vorrei anche dire che qua in questo testo, quando che è stato adesso, fino adesso letto, il termine nuova anarchia viene messo anche tra virgolette, facendo anche un riferimento al passato, quindi cioè non è una perché ci siamo ho incontrato dei testi nel passato che magari parlavano di una morte dell'anarchia, come l'abbiamo criticata come se è una cosa che è stata inventata, creata appena adesso, e che tutto quello che è stato nel passato è morto, è sepolto, e che non esiste nessun legame con più di un secolo di attività rivoluzionaria. Quindi questa nuova anarchia, sì, nuova perché ha deciso di passare all'attacco e non più basarsi sulle parole, sulle assemblee, che molto spesso non servono un cazzo, diciamolo tranquillamente, servono solo a fare 3-4 ore di pipponi in cui parlano 4-5 persone, i leader carismatici, ecco, di cui ovviamente non è sempre così, perché a volte è capitato pure in altri incontri in cui ero presente pure io, che non ci fossero figure carismatiche o capi, però è anche vero che molti compagni hanno difficoltà ad esporre le proprie idee, i loro punti di vista in assemblea. Questa è una cosa sbagliata, anche se all'inizio si deve rappezzare, aggrappare sugli specchi per mettere insieme 2-3 parole, necessario che avvenga, è necessario far sentire anche la propria voce e non lasciar parlare sempre le stesse persone. Sì, cioè non è anche il fatto, cioè non è solo il fatto della colpa, no, del leader carismatico, il fatto è che ovviamente per certe persone sono i leader carismatici ci sono, ci sono, però anche c'è da dire che anche ci sono persone che insomma hanno più capacità retorica degli altri, e forse questo spesso mette anche in imbarazzo, sì, le persone che non hanno forse questa capacità, e quindi questi leader carismatici si formano certe volte anche grazie al silenzio altrui, certe altre volte ovviamente a causa della stessa persona che vuole porsi come guida. Vabbè, questo giusto per iniziare questa discussione, sarà una lunga discussione, sull'intervista delle CCF a Compagnia Fedo Cospito. Ora ci ascoltiamo un brano, Declaration of War, Hardwire, e dopo si torna qui e si inizia la vera intervista. Let's go. iniziamo con l'intervista vera e propria. Domanda delle CCF iniziano chiedendo al compagno di dire qualcosa sulla sua situazione attuale. C'è poco da dire, siamo stati arrestati per la gambizzazione di Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Per inesperienza abbiamo fatto degli errori che ci sono costati l'arresto. Non abbiamo coperto la targa della moto che abbiamo usato per l'azione, l'abbiamo parcheggiata troppo vicino al posto dell'agguato e soprattutto non ci siamo accorti di una telecamera di un bar. Gravissimo errore che oggi stiamo pagando. Abbiamo rivendicato la nostra azione come nucleo Olga Five Free. Io sono stato condannato a 10 anni e 8 mesi, Nicola a 9 anni e 4 mesi. Nei prossimi mesi avremo un ulteriore processo per associazione sovversiva. Questo è più o meno la nostra attuale situazione processuale. La prossima domanda del CCF verte sugli anarchici e la prigione, chiedendo come sono le condizioni nelle sezioni speciali, come si comportano i carcerieri e come sono i loro rapporti con gli altri prigionieri. In Italia, attraverso i circuiti di alta sicurezza che comportano molte restrizioni, lo Stato democratico ci vuole isolare, relegandoci in sezioni completamente separate dal contesto generale del carcere. Impossibile qualunque contatto con gli altri carcerati, non abbiamo la possibilità di andare all'aperto solo 2 ore in un piccolo cortile di cemento. La censura per me e Nicola è sempre stata rinnovata, quindi con ritardo e difficoltà riceviamo posta e giornali. Le cose particolarmente interessanti per noi ci vengono sequestrate in entrata ed uscita. In questo momento siamo richiusi in una AS2, altra sorveglianza specifica per i prigionieri anarchici. Il rapporto tra noi ed i carcerieri è di indifferenza reciproca e naturale ostilità. Cos'altro dire? Dal mio punto di vista, le proteste civili fuori e dentro il carcere sono inutili. La vivibilità dentro è semplicemente una questione di rapporti di forza. Dal carcere bisogna uscire. Tocca a chi sta dentro farsene capace. La domanda del CCF parte con la frase: l'anarchia per noi non è un partito, non ha commissioni centrali, ma una corrente di azioni, di concetti e di valori. La domanda: quali sono le tensioni del movimento anarchico in Italia adesso, quindi le sue caratteristiche, le sue contraddizioni e le sue attività? E segue una risposta abbastanza lunga di Alfredo. Questa è una domanda importante che necessita una risposta articolata. Frequento il movimento anarchico dalla fine degli anni Ottanta. Negli ultimi 20 anni molte cose sono cambiate, molti rapporti tra compagni si sono rotti, molte dinamiche anche negative si sono messe in moto, dando a volte pessimi frutti e accentuando atteggiamenti leaderistici e politici, ma anche prospettive nuove, una nuova generazione al di fuori delle assemblee, al di fuori dei meccanismi della politica, ha fatto sentire la propria voce. Per rispondere alla vostra domanda sulla situazione del movimento anarchico italiano oggi, ho bisogno di fare un passo indietro. Spesso si pensa che l'insurrezionalismo sia un tutt'unico fatto di concetti e teorie ferme nel tempo nella loro rigidità ideologica. Un'ideologia con addirittura, cosa aberrante, un suo leader massimo ed i suoi dogmi. Nulla è immutabile nel tempo. Le donne e gli uomini, attraverso la loro azione, forgiano le idee. Non sono quei 3 o 4 compagni conosciuti con i loro libri ed articoli ad indicare la strada, né tantomeno le lunghe ed inconcludenti assemblee, ma quei compagni sconosciuti che con la loro pratica d'attacco ci spingono avanti, portandoci verso la vita. Fu proprio attraverso questa pratica che alla fine degli anni 90 i gruppi che ci hanno preceduto, Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini Occasionalmente Spettacolare, Brigata 20 Luglio, Cellule contro il Capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle, Solidarietà Internazionale, misero in discussione 2 dogmi consolidati del cosiddetto insurrezionalismo, l'anonimità delle azioni e la predominanza dell'assemblea trasformata in organo decisionale. 2 punti fermi che stavano trascinando inesorabilmente verso un'inerzia letale. dando continuità e voce alla propria pratica attraverso le rivendicazioni, uscendo dalle pastoie assembleari e non ponendosi più limiti di comprensibilità nei confronti della gente e del resto del movimento. L'anarchia tornò a far paura. A furia di bombe e rivendicazioni, questi gruppi sfattarono il dogma dell'anonimato dell'azione, facendo breccia nel silenzio che ci aveva avvolti dopo l'ondata repressiva del processo Marini, ostacolando seriamente quelle dinamiche che ci stavano trascinando verso un cittadinismo che rischiava di cancellare ogni istanza violenta. Dopo la comparsa di questi gruppi, il termine insurrezionalista per molti anarchici assunse una valenza negativa, soprattutto quando i giornalisti iniziarono ad usarlo come sinonimo di terrorismo. A quel punto molti fecero un passo indietro sostenendo che certi attentati spettacolari e le relative rivendicazioni allontanavano la gente. Per capire le divisioni all'interno dell'anarchismo d'azione oggi in Italia bisogna tornare agli albori della lotta in Valsusa contro l'alta velocità. Nel 1998, dopo le tragiche morti di Baleno e Sole, furono molti gli appelli alla legittimità democratica, ad una giustizia giusta, ad un processo equo. Non solo da eminenti rappresentanti del radicalismo democratico, ma anche da parte del movimento anarchico. Una gran parte degli anarchici si impegnò in una crociata innocentista ai limiti della denigrazione. Sole e Baleno furono rappresentati come due vittime innocenti, due poveri ingenui travolti da una storia più grande di loro. Dopo l'arrivo di una decina di pacchi bomba indirizzati ad alcuni dei responsabili della morte dei compagni, azioni mai rivendicate, il movimento anarchico quasi al completo, temendo future ondate repressive, prese le distanze da tali pratiche, considerandole nel migliore dei casi non degne di anarchici e nel peggiore dei casi come vere e proprie provocazioni poliziesche. Pochissime le eccezioni, che naturalmente si attirarono le attenzioni della magistratura negli anni a venire. Da allora la grande maggioranza dei cosiddetti insurrezionalisti fu travolta da una sfrenata quanto suicida voglia di consenso, intraprendendo una corsa inarrestabile incontro alla società civile. Inseguendo la chimera della lotta sociale popolare, ovunque si presentasse, rimbalzando come trottole impazzite, dai CIE al Valsusa, all'occupazione di casa, alla lotta dei detenuti, annacquando sempre più le proprie progettualità per apparire credibili, affidabili, realisti, avvicinandosi sempre più pericolosamente al cittadinismo. Una piccola parte di loro, anni dopo, resasi conto della brutta piega gradualista e politica che le lotte sociali stavano prendendo, si rinchiude nella classica torre d'avorio, pontificando contro tutto e tutti, immersa fino al collo in un disperato nullismo pratico. Altri, invece, sperimentarono senza limiti ogni loro potenzialità vitale, fregandosene dei sommi teorici e dei massimi sistemi. I più lucidi aspiranti al sociale, almeno all'inizio, cercarono di replicare in Valsusa l'esperienza degli anni Ottanta contro l'installazione dei missili a Comiso, esperienza ancora oggi strombazzata come esempio concreto di metodologia di intervento insurrezionalista sul territorio. A Comiso la progettualità aveva effettivamente avuto, seppur criticabile per il suo contenuto politico strumentale, una prospettiva insurrezionale. La lotta intermedia, la cacciata degli americani e dei loro missili doveva far da scintilla per un'insurrezione generalizzata nel cuore della Sicilia, come nella classica tradizione della banda del Matese. Leghe popolari fittizie formate da soli compagni e compagne, discorsi populisti alla gente per terrorizzarla e spingerla alla rivolta, assurdi comizi alla popolazione su possibili stupri da parte dei soldati americani cercarono di far leva sul macismo italiota, facendo di questo intervento un fenomeno tutto politico, criticabilissimo dal mio punto di vista, ma sempre, bisogna ammetterlo, in un'ottica insurrezionale. In Val di Susa le cose andarono diversamente. Fin dal principio l'obiettivo insurrezionale fu velocemente sostituito dalla semplice lotta al TAV. La lotta intermedia prese il sopravvento, dal qualitativo si passò al quantitativo, a contare i manifestanti nei blocchi stradali, a lottare a fianco di alpini, vigili, sindaci, partiti, prendendo di vista l'obiettivo finale, la distruzione dell'esistente. La prospettiva insurrezionale si era trasformata in un più modesto politico miglioramento dell'esistente. Per l'ennesima volta il realismo aveva cancellato il potenziale vitale dell'anarchismo. Personalmente non critico a priori, in maniera ideologica, le cosiddette lotte intermedie. Quello che critico è il modo, il metodo con cui si interviene, il porsi come referente dando dei limiti alla propria azione, inevitabilmente si corre il rischio di farsi avanguardia. Non fai più quello che ritieni giusto, ma quello che potrebbe spingere la gente dalla tua parte. Fai politica. Dal momento in cui ti autoimponi dei limiti per paura di non essere compreso, sei di fatto già un soggetto politico. Diventi quindi parte del problema, uno dei tanti cancri che ammorbano la nostra esistenza. Non bisogna mai moderare le proprie parole ed azioni per diventare digeribili dal popolo, dalla gente, altrimenti si rischia di essere trasformati dall'obiettivo intermedio che si vuole raggiungere. Leggendo oggi le vecchie rivendicazioni dei gruppi che dopo il 2000 daranno vita alla FAI, mi sono reso conto che con le loro azioni sono intervenuti spesso nelle lotte intermedie, cercando di raggiungere obiettivi parziali, abolizione FIES, CIE, eccetera, ma è mirando ad un consenso generalizzato, ad una crescita quantitativa, sempre puntando ad una crescita qualitativa dell'azione, maggiore distruttività, maggiore riproducibilità. La qualità della vita di un anarchico è direttamente proporzionale al danno reale che apporta al sistema mortifero che lo opprime. Meno compromessi accetta, più forti, cristallini diventano i suoi sentimenti, le sue passioni, più lucido il suo odio, sempre affilato come un rasoio. Sfortunatamente la grande maggioranza degli anarchici agisce in base al codice penale. Molte azioni non vengono messe in pratica semplicemente perché si ha paura delle conseguenze. Dovremmo prendere atto che il destino peggiore per un anarchico non è la morte o la galera, ma il cedere alla paura, alla rassegnazione. Le azioni degli iscritti dell'Internazionale Nera rendono evidente a chiunque il rifiuto totale di questa rassegnazione, la forte vitalità, l'energia di un movimento che fa della qualità della vita, del senso della comunità e solidarietà, della lotta permanente il centro del potere del proprio esistere. La morte e la galera hanno già fatto la comparsa in questo percorso, ma non ci hanno sconfitto. La nostra forza è la piena coscienza di quello che siamo. Piena coscienza che una volta sconfitta la paura, una vita piena degna di essere vissuta, ci si spiana davanti, duri quanto duri, è l'intensità che conta. Tornando alla vostra domanda iniziale sulle tensioni, le caratteristiche e le contraddizioni del movimento anarchico, oggi in Italia devo dire che è ancora molto forte il dibattito sull'utilizzo o meno di sigle e rivendicazioni. Anche in questo caso io non ne farei un discorso ideologico, non ho niente contro le azioni non rivendicate, semplicemente dal mio punto di vista tendono a scomparire, non aprono discorsi, hanno un potenziale di riproducibilità minimo. Per questo ho fatto mia la metodologia della FAI-FRI. Gli insurrezionalisti qui da noi ne fanno al contrario un discorso ideologico. Chi rivendica con una sigla è un nemico da denigrare. Chi li conosce sa benissimo il perché di tale intransigenza. Il comunicare attraverso le rivendicazioni mette chiaramente in pericolo il loro potere, la loro egemonia teorica. Le azioni rivendicate mettono a nudo il loro nullismo pratico. Alle spalle il fallimento di una progettualità insurrezionalistica classica che non riesce ad adattarsi alla realtà, davanti dotti discorsi o poco più. Come reazione ad una realtà che li schiaccia subentra il panico, la rabbia e l'odio per qualunque cosa si muova al di fuori dei loro schemi rigidi, fallimentari. La componente maggioritaria dell'anarchismo d'azione qui in Italia è composta da quegli insurrezionalisti che hanno abbracciato con indubbio entusiasmo e sacrificio la tendenza sociale. Qualche volta si sporcano le mani con l'azione, sempre però con un occhio rivolto alla società civile, sempre misurando con attenzione tutta politica e i propri passi. Partiti da una progettualità insurrezionalista classica, sono arrivati oggi al cittadinismo rivoluzionario, miracoli del realismo politico. Qualche anno ancora e si farà fatica a distinguerli dai militanti della Federazione Anarchica Italiana, con i quali sempre più spesso si accompagnano in manifestazioni, sfilati e presidi. spesso inneggiando ad improbabili repubbliche libere. Fanno due passi avanti, due indietro, rimanendo di fatto al palo, ma sempre in buona, simpatica compagnia. Il terzo incomodo, la cosiddetta variabile impazzita dell'anarchismo di azione in Italia, la fa informale, e ancora prima tutti quei gruppi che l'hanno generata, cellule metropolitane, rivolta anonima terribile, nucleo rivoluzionario Fantazzini, cellule contro il capitale, carcere sui carcerieri, le sue celle, solidarietà internazionale, sorelle in armi, nucleo Maurizio Morales, brigata 20 luglio, cellule armate per la solidarietà internazionale, rivolta animale, cellula rivoluzionaria Lambros Fundas, cellula Damiano Bolano, individualità sovversiva anticivilizzazione, cospirazione Fuoco Nero e Nicola e io del nucleo Olga. Un centinaio e più di azioni sparse nell'arco di 20 anni. In quegli anni da spettatore ho assistito al panico degli anarchici di ogni corrente. Chi terrorizzato dalla repressione e dalla somiglianza dell'acronimo alla loro federazione, chi spiazzato, e lo ero anche io, perché non capiva cosa stesse succedendo, cosa bolliva in pentola. Come reazione fioccarono le accuse più infami, servizi segreti, autoritarismo. I più furbi ignorarono il fenomeno sperando in una veloce dipartita, ma quando il virus FIFRA, grazie a voi CCF, si diffuse in mezzo mondo, fioccarono e continuano a fioccare fiumi di parole da parte di anonimi, tra virgolette, censori dell'ortodossia, arcipelago, lettera alla galassia anarchica, fiumi di parole mai seguiti dai fatti, almeno qui in Italia. Ecco questo, con questa lunga risposta Alfredo ha spiegato, secondo me, conoscendo bene anche il movimento anarchico, perché non lo frequento da fine anni 80, ma da una 5-6 anni, un 5 anni dopo, capisco bene a cosa si riferisce Alfredo e mi ci ritrovo in pieno quando specialmente parla del movimento e delle lotte viste con un occhio, ricorrere sempre al consenso sociale. Sì, ricordo per esempio all'epoca i pacchi bomba, fiumi di parole, come dice Alfredo, di gente, io non li definisco nemmeno compagni, perché anche se si firmano anarchici o si definiscono anarchici, non è detto che io per forza li debba definire compagni. Gente che diceva, al povero postino, porta il pacco e gli può scoppiare in mano. Povero persino, un par di balle, perché poi alla fine, cioè, quei pacchi là è dato di fatto che non sono mai esplosi chiusi. È capitato in Messico che qualcuno non si è fatto i cazzi suoi, un po' sì, non si è fatto i cazzi suoi, ha aperto il pacco. Questo perché voleva rubare l'area furtiva, il contenuto, ed è saltato. Ma quei pacchi là, almeno ci sono 3.000 schemi, li hanno pubblicati sui giornali, La Repubblica, La Stampa, Il Manifesto. La stessa questura ha mandato foto degli schemi di come venivano fatti i pacchi in bomba. Quei pacchi in bomba non possono mai esplodere in mano al postino, perché, cioè, è una cosa pratica. Cioè, e quindi chi l'ha aperto si prende la responsabilità. Chi l'ha aperto? Allora, l'ha aperto un paio di loro, l'hanno aperto, tra cui un ex maresciallo dei Carabinieri, Sindona, se mi ricordo, quello che rimase senza le tre dita, e più un altro che aprì la segretaria di Prodi, una cosa di Prodi stesso. Quindi c'è poco da piangere come vittime. Quindi come vittime non c'è poco da piangere. Poi ovviamente lui, Alfredo, comunque, cioè, parla pure di quello che, agganciandosi al discorso che facevamo prima per quanto riguarda i leaderismi, questi i leaderismi all'interno del movimento anarchico italiano, che esistono, purtroppo esistono, e fortunatamente esistono in quelle lotte che io definisco cittadiniste, per cui si sono rigirati le palle bel po' di loro, ma di fatto lo sono, perché una volta che, come pure dice Alfredo, scendi in piazza, scendi per strada con i preti, con i sindaci, con gli assessori, con le associazioni, con Tizio Cai, di fatto hai fatto una lotta cittadinista, anche se la fai non con queste soggettività politiche, istituzionali, ecclesiastiche o governative, anche se la fai solo con il popolo, cioè con la popolazione della Val di Susa, e non la porti avanti con le tue, chiamiamole, parole d'ordine tra virgolette, cioè, l'identità si fonde, alla fine si fonde, scendi nella al massa. Compromesso, fai il compromesso e alla fine sei tu che diventi come loro, cioè, anche se l'idea di partenza, suppongo, di queste persone è al contrario, che le persone dovrebbero diventare come loro in quest'ottica, no, che partono queste lotte, alla fine, come si è visto, come in pratica, che succede proprio l'incontrario. Vabbè, siccome la lettura è ancora lunga, ci mandiamo un brano. Poi dopo si torna qui e si va avanti con le domande del CCF ad Alfredo. This is a really important time in your life right now. Okay? Don't be messing around. Allora, ritorniamo alla domanda del CCF. Nei tuoi scritti, quando parli di potere, ti riferisci esclusivamente al potere dello Stato o anche al potere diffuso nella società e nelle sue strutture? Quando parlo di potere, mi riferisco a tutti i suoi aspetti, quelli più evidenti e quelli più subdoli, più nascosti. Il potere si infiltra dappertutto nei rapporti tra compagni, compagne, nei nostri amori, nei rapporti effettivi ed amicali. Per questo motivo ritengo primario ricercare un nuovo modo di progettare, di vivere le proprie passioni, di interagire tra di noi, per aumentare la qualità della nostra azione, della nostra vita, del nostro essere in primo luogo ribelli. Continuo a pensare che la società esista solo sotto il segno di dominanti e dominati, ancor meglio tra dominanti e coloro che si lasciano dominare. Ci sono sicuramente delle responsabilità diffuse, ambentue questi soggetti sociali contribuiscono alla limitazione della mia libertà, della mia felicità. Il cittadino democratico, da buon servo, teme e rispetta il potere, mendica la sua attenzione, consolida le catene che ci legano i polsi. Ciò non toglie che le responsabilità non siano le stesse, c'è una gradazione. Tra un uomo e una donna di potere, un ricco, un manager, un industriale, un politico, uno scienziato, un tecnocrate ed un semplice cittadino, impiegato, operaio, che avvala con il proprio quieto vivere, col proprio assenso, col proprio voto, lo status quo, io colpisco senza esitazione i primi. Questo non toglie niente al disprezzo che provo nei confronti della servitù volontaria, dei rassegnati. Se il buon cittadino si frapponesse tra me e la libertà, non esiterei ad agire di conseguenza. Per quel poco di esperienza che ho, posso dire che la gente, il popolo, gli esclusi, gli oppressi sono molto meglio di quello che i nostri occhiali ideologici ci fanno vedere. Non lotto per i rassegnati, ma per la mia stessa libertà, per la mia stessa felicità. Unico referente possibile, la mia comunità. Il mio concetto di comunità è antitetico rispetto al concetto onnicomprensivo, autoritario, astratto di società. Il mio essere partecipe di una comunità nichilista, anarchica, anticivilizzatrice, totalmente altra, in lotta permanente contro l'esistente, mi costringe a dichiarare ogni giorno guerra alla società. Non voglio raccogliere consensi, ma rafforzare attraverso l'azione violenta i legami di solidarietà reale con i miei fratelli e sorelle. L'Internazionale Nera è la mia comunità sparsa per il mondo, compagni di strada che condividono il mio bisogno di attaccare senza tentennamenti, senza conoscersi. Nelle differenze siamo una cosa sola, un pugno chiuso, un gancio nello stomaco della società. Combinare il ghiaccio della strategia col fuoco dell'azione, qui e ora, l'intensità con la durata, col diretto fine di distruggere l'apparato sociale per la liberazione delle nostre vite, tratto dal opuscolo Diventiamo pericolosi delle CCF. Nella lotta a nuove idee sono sbocciate come semi nel vento, trasportate lontano attraverso il fuoco dell'azione, intuizioni, strategie impensabili prima sono nate. In una modernità in cui termini come società e potere rivelano tutta la loro sinonimia, sento il bisogno di nuovi significati, nuove parole per veicolare la mia continua tensione alla nuova anarchia. Usare parole nuove perché le vecchie mi sono strette, nuovi significati per una progettualità totalmente altra. Le stesse parole e latitudini diverse possono rappresentare concetti molto diversi. La cosiddetta organizzazione informale, almeno come è stata teorizzata dalla fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in Italia, è cosa ben lontana dall'informalità della Fai Free. Secondo gli insurrezionalisti italiani, l'organizzazione informale doveva fondarsi principalmente sullo strumento assembleare e sulla creazione di comitati di base e leghe autogestite. Dove gli anarchici, come una vera e propria minoranza agente, dopo aver contribuito alla loro creazione attraverso reti, contatti, affinità, avrebbero dovuto cercare di orientare il movimento reale verso sbocchi insurrezionali. Il campo di battaglia di questa strategia insurrezionalista è la lotta intermedia. Gli esempi concreti che vengono fatti sono sempre gli stessi. Il già citato Comiso e lo sciopero selvaggio dei ferrovieri di Torino del 78. Con un certo imbarazzo mi ricordo assistetti davanti ai giudici nel processo Marini allo spiegone da parte di un compagno della differenza tra la metodologia insurrezionalista e la concezione di banda armata di azione rivoluzionaria. organizzazione armata comunista anarchica degli anni 70. Tutto questo per rimarcare le distanze con il lottarmattismo, sottigliezze di un certo insurrezionalismo nobile di cui non mi sento per niente figlio. Oggi certe strategie fanno la ricomparsa tra gli anarchici qui in Italia nei processi in Ottav con l'aggiunta del pericoloso corollario di simpatie da parte di magistrati democratici e intellettuali di sinistra. Società civile accolta a braccia aperte per contrastare la paura che segue alla repressione. Niente di più lontano dalla concezione antisociale, antiorganizzativa, nichilista, squisitamente anarchica della FAI Free. Per questo quando parlo della FAI non faccio riferimento all'organizzazione informale, ma ad una diversa metodologia d'azione. Certe parole sono superate, parole come organizzazione preferisco non usarle perché non ci rappresentano, sono altro di noi, come sono altro da noi potere e società, con tutto il loro corollario di abomini e mostruosità. Con questa risposta continua il inizia con un discorso, quello forse approfondisce quella sulle azioni criticate perché potevano nuocere al postino, no. Oppure si possono, nemmeno a farla apposta, si collega anche ai fatti avvenuti in Cile ultimamente. Non è intenzione di Alfredo perché l'intervista è vecchia, però è comunque collegabile con i fatti, molto collegabile, dove ovviamente dice esprimo ovviamente tutto il mio disprezzo per la massa, ma quello non è il mio nemico principale, come hanno ribadito anche alcuni compagni di cui abbiamo pubblicato il testo sulla reazione. Sono apparsi molti testi, quelli sono, cioè la massa non la condivido, ma i nemici sono dall'altra parte, è ben visibili. Poi vabbè, continua il discorso sul suo punto di vista di anarchismo informale, anche questo io mi sento di condividerlo perché è molto lontano da quello che in qualche testo vecchio di un compagno anarchico si viene spiegato, e poi l'ha spiegato anche lui. Purtroppo ero presente pure io come Alfredo a quell'udienza del processo Marini quando c'è stata questa spiegazione, questa lezione di banda armata al giudice, un po' là non è che non è stata ben accettata da tutti, tutto il rispetto che poi dopo quello che ha potuto fare, però in quel momento stendiamo un velo pietoso. Vabbè, allora ascoltiamoci un altro brano prima di passare alla prossima domanda. Loro sono, questo ne dici tu perché sono dalle tue parti. Borghesi anni upagna ni strahu, né speranze né paura. Стивом, savage place. Dangerous place. Ripeto il suo nome perché sia di Upanyani Strahu. Invece passo alla nuova, l'ennesima domanda della lunga intervista delle CCF ad Alfredo Cospito. Allora, la domanda: una gran parte del movimento anarchico, tanto nella pratica che nella teoria, contrastano lo Stato e le istituzioni, ma non fanno lo stesso contro la civiltà e la tecnologia. Anzi, sono tanti quelli che immaginano fabbriche auto-organizzate e governo anarchico, un governo anarchico nella nostra vita. Qual è la tua opinione sulla tecnologia e sulla civiltà-civilizzazione? Alfredo. Ancora oggi la visione dell'anarchismo ottocentesco-scientista, positivista, è quella dominante. C'è ancora chi nel 2014 si pone l'assurdo problema di cosa fare il giorno dopo la rivoluzione, come gestire la produzione, come affrontare le inevitabili carestie, come autogestire le fabbriche, come regolare i futuri rapporti sociali. Se io metto al centro della mia attenzione il contrasto alla civilizzazione e alla tecnologia, il concetto di rivoluzione come era inteso un secolo fa viene di fatto messo da parte. Mettere in discussione la civiltà tutta presuppone una distruzione totale, apocalittica, utopica, irrealizzabile. La rivoluzione, con il suo semplice e realizzabile capovolgimento dei rapporti sociali, è ben poca cosa, un inutile palliativo perché creatore di nuova civiltà. Dichiarando guerra alla civilizzazione, appaghiamo il bisogno di vivere non fuori, come cosa impossibile. La civiltà non ci abbandona mai, ce la portiamo sempre dentro, ma contro essa. Creando comunità in guerra permanente con la società, costruiamo momenti di felicità, viviamo spazi di intensa gioia nelle nostre vite. La rivoluzione è uno strumento insufficiente, con il suo politico concreto realismo, anche nella sua variante libertaria, con le sue comune autogestite, con la sua amministrazione e governo del mondo, con la sua inevitabile creazione di status quo, spezza ali, infrange speranze, crea nuove catene. La rivolta, con la sua infinita carica di rottura, con la sua mancanza di prospettiva, con la sua negazione assoluta della politica, realizza speranza e spezza catene. La donna e l'uomo in rivolta distruggono catene senza volerne costruire altre. Basta questo a riempire d'avventura e felicità una qualsiasi esistenza. Ora passiamo ancora a un'altra domanda posta dalle CCF ad Alfredo. Cosa pensi della rete internazionale dell'ALF e dell'ELF? Ci sono prospettive di connessione con la FAI? Per i compagni che come me si sono formati nelle lotte degli anni 90 in Italia, è stato molto importante il contributo che i gruppi d'azione dell'ALF e dell'ELF con la loro rete internazionale hanno dato all'immaginario rivoluzionario, anarchico e al modo di organizzarsi in gruppi di affinità. La loro prospettiva ecologista, animalista, ha cambiato la visione di molti anarchici. In Italia la loro propensione al gruppo di affinità fu accolta dagli insurrezionalisti con entusiasmo, come esempio concreto di organizzazione informale. Le prime azioni ALF in Italia erano strettamente legate ad una visione anarchica. Col tempo la prospettiva anarchica è andata affievolendosi. L'unica obiezione che mi sento oggi di fare loro è sulla contrarietà che hanno a colpire le persone. Anche se so che grossi dibattiti ci sono stati, questa loro posizione sinceramente non riesco a capirla. Capisco e condivido di più la violenza dimostrata dalle ETS messicane, la loro concezione anticivilizzatrice, selvaggia, anti-ideologica. Per quanto riguarda le connessioni tra la FAI, FRI e l'EF e ALF, sono fuori di dubbio, un dato di fatto di cui bisogna solo prendere atto. Basta leggere le rivendicazioni dell'EF FAI FRI russa e dell'ALF FAI messicana. A costo di essere ripetitivo, non posso che ribadire che la FAI FRI è una metodologia, un metodo. Firmare così vuol dire invitare altri gruppi FAI FRI sparsi per il mondo ad aderire ad una propria campagna di lotta, aumentare la propria forza, far rimbalzare da una parte all'altra del mondo le nostre azioni, rendere più efficiente e distruttiva la propria azione. Niente di più, niente di meno. Le sorelle ed i fratelli dell'ALF e dell'ELF che hanno firmato FAI FRI hanno aderito a questa metodologia, senza rinunciare in nessun modo alla loro storia. Non giochiamo a risico, la FAI FRI non è un'organizzazione che ingloba sigle sparse per il mondo. Si prende parte della FAI FRI solo nel momento in cui si agisce e si colpisce rivendicando FAI. Poi ognuno torna ai propri progetti, alla propria prospettiva individuale, all'interno di una internazionale nera comprensiva di una moltitudine di pratiche tutte aggressive e violente. Mi sono poi convinto, forse sbaglio, che i fratelli e le sorelle dell'ALF e dell'EF che hanno firmato FAI lo hanno fatto per rimarcare il loro essere anarchici, la loro adesione alla progettualità anarchica, a quella che io chiamo nuova anarchia, per prendere le distanze da quell'ecologismo che basa tutto sull'empatia, sul pietismo. E beh, queste due ultime domande a Frido. Nella prima ci vabbè, rispondo a quella sulla salvezza delle fabbriche, l'organizzazione in una futura società anarchica, di cui io ho notato che è ancora molto presente nell'est Europa, forse come conseguenza di lunghissimi anni di socialismo, e quello che ha lasciato alle generazioni future. Il casino è che si pensa sempre a cosa verrà dopo, ma non si pensa a fare adesso, perché se non fai adesso non ci sarà un dopo. A parte l'auto-organizzazione delle fasi, cioè il governo anarchico mi rabbrividisce, mi fa rabbrividire, ma anche io so che qualcuno ha certe idee. È stato attuato in Calabria, non mi ricordo il paese, come cazzo si chiama, dove nella al comune c'è Spezzano Albanese. Governo anarchico. Ecco, governo anarchico. Tragicomico. Cioè proprio, cioè, come creare i sinonimi e contrari, un oxymoron, proprio come dire il ghiaccio caldo, cioè il governo anarchico è un'antitesi. Quindi c'è di base che comunque secondo me cioè molti compagni, più che farsi pipponi a stare là a discutere in lunghe assemblee, giornate di discussioni e roba varia su quali sono i massimi sistemi, su cosa avverrà dopo, sarebbe meglio rimboccarsi le maniche e vedere cosa c'è da fare ora. Secondo la seconda domanda che, a cui ha dato risposta Alfredo, era sull'Alf e l'Elf, che è vero, cioè nei primi anni 90 anche io sono cresciuto leggendo delle azioni di Alf e Elf che avevano tutt'altra valenza rispetto ad oggi, cioè erano molto più, cioè almeno l'Elf è una cosa che poi è arrivata dopo in Italia, arriva più dagli Stati Uniti, la corrente primitivista. Vista. L'Alf invece era molto più conosciuta in Italia già negli anni 90. Le stesse rivendicazioni, le stesse azioni, cioè, ci tenevano anche a mettere una cerchiata molto spesso. Sì, molto più radicali di quelli che sono oggi. È una cosa molto anacquata. A parte qualcuno, come dice Alfredo, che ha aderito all'acronimo FAI-FRI, poi ci sono altri compagni che hanno firmato azioni ALF o ELF. Che non firmano FAI FRI perché forse non ci si ritrovano, però sono compagnanati, mentre buona parte abbiamo visto che di Alfa è scaduta per un puro salvezza di coniglietti e galline. E poi si parla di suo, cioè, neanche anarchici, cioè alla fine sì, neanche si è andato molto la mia, io mi ricordo all'epoca quando abitavo nelle terre toscane, qualche volta per curiosità sono partecipato a un po' di quelle manifestazioni animaliste organizzate all'epoca dal Movimento Animalista Italiano, che si dicevano compagni, però visto che poi dopo col passare del tempo sono diventati peggio dell'associazione, molti di loro, cioè, sono usciti testi abominevoli, sono usciti addirittura, io mi ricordo dell'arresto di Sergio Maria Stefani, arrestato ad Arezzo per l'azione contro la macelleria. All'epoca Stefano stesso era molto interessato all'animalismo, era, me lo ricordo, nelle manifestazioni animaliste ci conoscevamo già, quindi era molto amico di questi animalisti. Ho visto che dopo l'arresto, quando fino a che era l'azione, era l'arresto, era avvenuto solo per l'attacco alla macelleria, ebbe solidarietà. Dopo due mesi partì l'operazione Cervantes, in cui Sergio venne indagato come appartenente alla FAI, all'epoca era solo FAI, non è FRI, da allora cancellarono il nome di Sergio dalle liste dei detenuti. Perché è uscito fuori dalla cornice esclusivamente animalista, dove questi gruppi ormai... Questa cosa me la ricordo bene perché mi ha fatto abbastanza schifo. È una cosa che comunque ogni volta che discuto con un animalista che tuttora fa cortei animalisti e organizza insieme animalisti, è una cosa che gli rinfaccio, perché gli va rinfacciata, perché alla fine il loro sentire anarchico mi sa che è andato un po' perso tra i coniglietti e le galline. Quindi vabbè, questo era per quanto riguarda, ovviamente poi uno non generalizza, perché dell'AF e dell'EF ci sono molti compagni validi, anarchici, questo no, vabbè, sì, ma non è una generalizzazione, non è una generalizzazione, però è una buona parte del movimento anarchico, che all'epoca faceva parte anche del movimento animalista, ha fatto una brutta fine. Questo penso, sì, perché lo posso... Cioè si perde la visione del totale per un segmento della liberazione, come vuol dire, se adesso diventiamo tutti vegan e non utilizziamo più animali, non mangiamo carne, non ci vestiamo di pelle, eccetera, eccetera, eccetera, il mondo sarà libero, cioè, perché la loro lotta ormai si basa solo sulla salvezza degli animali. Però c'è qua chi ha teorizzato l'omicidio degli uomini e delle donne per salvare gli animali, un imbecille, un idiota. Ma sì, nazifascista. Ci sono queste teorie sulla estinzione è stato preso umano. Anche da parte di qualche idiota italiana, qualche filo nazista italiana. Io la reputo filo nazista, che le sue tesi sono filo naziste, nonostante chiunque la mette sui blog e sui siti come compagna di nuovo indagata dei fatti in Svizzera, non faccio il nome, ma la luce perché tra l'aborto e le teorie di questi imbecille, sto pezzo di merda americano su come salvare gli animali. L'America è molto molto presente, cioè era, non so, adesso era presente in un periodo anche nell'ambiente delle elfe di questi, come lo chiamavano, il Green Scare di attivisti, questo discorso sull'aborto, sull'estinzione dell'essere umano, che non ha preso per fortunatamente radice in Europa, però si avvicina molto a quello che è anche un, diciamo, ecologismo radicale del nazifascismo. Tra gli animalisti ci sono tantissimi gruppi dell'estrema destra. Cioè, alla fine l'ecologismo è nato, non è una priorità anarchica. No, cioè l'ecologismo come tale nasce proprio nell'ambiente nazista. Quindi vabbè, allora, questo era per quanto riguarda la discussione sulle due ultime due domande fatte dalle CCF ad Alfredo. Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi si ritorna qui con altre domande e altre risposte da parte di Alfredo. Il brano è dei Christ Analog, il brano ha per titolo A Slight Ridge. Responded with rage. She sealed files and broke shit. The fuel in his system made it more than the real thing. His presence was strong, he did astound. Now everybody down on the ground. Abandoned control. The rage he perfected made him more than the real thing. His anger was pure, he did astound. Now everybody down on the ground. We'll be right back. Domande della CCF. Adesso la FAI è una rete internazionale di anarchicidazione con decine di cellule in molti paesi in tutto il mondo. L'inizio di questa avventura fu nel 2003 in Italia con una lettera aperta della FAI al movimento antiautoritario. Se vuoi, dici in breve come vedi l'evoluzione della FAI e quali sono ora i suoi punti di riferimento. Quando nel lontano 2003 lessi lettera aperta al movimento anarchico ed antiautoritario firmata dalla cooperativa artigiana Fuoco ed Affini, occasionalmente spettacolare, Brigata 20 luglio, cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle, solidarietà internazionale, rimasi molto colpito. In molti lessero questo scritto unicamente come una goliardica provocazione al vecchio dogmatico anarchismo della Federazione Anarchica Italiana. Ancora oggi compagni degnissimi come Gustavo Rodriguez sostengono questa tesi nei loro scritti, ma gli informati da anarchici italiani che nulla sanno e che molto hanno fatto fin dall'inizio per ostacolare questa nuova tendenza dell'anarchia. Apro una breve parentesi, gli scritti di Rodriguez riguardanti l'internazionale nera sono a mio parere notevoli, alcuni spunti da lui sviscerati ci aprono realmente prospettive nuove. Detto questo, io fin dall'inizio ho preso molto sul serio la scelta dell'acronimo FAI, non vedendovi unicamente un attacco alla vecchia federazione formale ma una progettualità nuova. Pur essendo all'epoca lontanissimo da tale prospettiva, iniziai allora quel lento processo che mi portò nel 2012 ad agire come nucleo Olga della FAI Free. Rileggendo oggi lettere aperte al movimento anarchico ed antiautoritario, mi rendo conto di quanta strada è stata fatta, di quanto si sia evoluta tale concezione dell'anarchia e di quanto stia continuando ed evolversi. E inizia qua il testo estratto da questa lettera aperta, che spiega i tre concetti: federazione anarchica informale. Federazione, perché ne amiamo il senso di ramificazione diffusa e orizzontale. Federazione di gruppi o singoli, donne e uomini, liberi ed uguali, accomunati dalle pratiche di attacco al dominio, consci del valore del mutuo appoggio e della solidarietà rivoluzionaria come strumenti di liberazione. Intendiamo la federazione come rapporti stabili nel tempo, ma allo stesso tempo fluidi in continua evoluzione grazie all'apparato di idee e pratiche dei nuovi gruppi o individui che decideranno di farne parte. Pensiamo ad un'organizzazione non democratica, senza assemblee plenarie, rappresentanti, delegati o comitati, priva di tutti quegli organi che favoriscono la nascita di leaders, l'emergere di figure carismatiche prodotto dalla pratica stessa, rivendicazione delle azioni, e dalla diffusione delle teorie tramite gli strumenti formativi del movimento, di sintesi nell'eliminazione dell'assemblea sostituita dal dibattito orizzontale, anonimo, prodotto dalla pratica stessa, rivendicazione delle azioni e della diffusione delle teorie tramite gli strumenti formativi del movimento. In sintesi, nell'eliminazione dell'assemblea sostituita dal dibattito orizzontale anonimo tra gruppi singoli comunicanti attraverso la pratica stessa. La federazione è la nostra forza, la forza dei gruppi singoli che si sostengono l'azione attraverso un patto di mutuo appoggio ben definito. Anarchica, perché vogliamo la distruzione dello Stato e del capitale per vivere in un mondo in cui domini la libertà e l'autogestione, dove sia possibile ogni tipo di sperimentazione sociale che non comporti lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Radicalmente avversi a qualunque cancro marxista, sirena incantatrice che incita alla liberazione degli oppressi, ma in realtà macchina incantatrice che schiaccia la possibilità di una società liberata per sostituire un dominio all'altro. Informale, non avendo nessun tipo di concezione avanguardista e non sentendoci neppure parte di un'illuminata minoranza agente, ma volendo semplicemente vivere ora e subito il nostro anarchismo, abbiamo ritenuto l'organizzazione informale, quindi l'informalità, l'unico strumento organizzativo che ci potesse garantire da meccanismi autoritari e burocratizzanti, salvaguardando la nostra indipendenza come gruppi singoli e garantendoci un certo margine di resistenza e continuità nei confronti del potere. La Federazione Anarchica Informale, pur mettendo in pratica la lotta armata, rifiuta la concezione che si basa su monolitiche organizzazioni, strutture strutturate in maniera classica. Basi, regolari, irregolari, clandestinità, colonne, quadri dirigenti, enormi necessità di denaro. Strutture a nostro parere facilmente inattaccabili dal potere, è sufficiente il classico infiltrato o delatore per far cadere come un castello di carte l'intera organizzazione o gran parte di questa. E qua si conclude la citazione. Diversamente, in un'organizzazione informale costituita da mille singoli o gruppi che non ci conoscono tra di loro, piuttosto si riconoscono attraverso le azioni compiute ed il patto di mutuo appoggio che li lega. Malaugurati casi di infiltrazione o dell'azione rimangono circoscritti al singolo gruppo senza espandersi. Inoltre, chi fa parte della Federazione Anarchica Informale ne è militante a tutti gli effetti solo nel momento specifico dell'azione e della sua preparazione. Non investe l'intera vita e progettualità dei compagni, ciò permette di mettere definitivamente in soffitta ogni specialismo lottarmatista. Una volta radicato il potere troverà enormi difficoltà a distruggerci. Lo slancio vitale della Fight Free è il suo continuo rinnovamento, la sua stimolante evoluzione. Oggi il bisogno di superamento di vecchi concetti come organizzazione, società liberata, rivoluzione si fa più che mai impellente. Altri concetti come federalismo, informalità, mutuo appoggio, dibattito orizzontale anonimo tra gruppi singoli attraverso la pratica, rifiuto delle assemblee plenarie, mantengono tutta la loro forza, rimanendo i pilastri su cui fondare la nostra progettualità. Gli anarchici d'azione della FAI da quel 2003 si sono dati nuove prospettive, hanno sviluppato nuove connessioni, ignorando i deliri nullisti dei teorici puri dell'insurrezione, contro ogni realismo politico hanno fatto in modo che concetti come nichilismo, lotta antisociale facessero la loro ricomparsa più vitali che mai. Il cervello della Fight Free è questo continuo, caotico dibattere di donne e uomini attraverso l'azione. Parole e prospettive nuove verranno per descrivere percorsi nuovi che oggi neanche immaginiamo. Parole che a loro volta saranno superate da concetti ancora più efficaci e dirompenti perché testati nell'azione. Una sperimentazione continua di rivolta, nulla di stabilito, nulla di immutabile nel tempo, unico punto fermo l'insaziabile desiderio di libertà e la continua tensione all'anarchia. Nicola ed io, con l'azione contro Adinolfi, seppur con ritardo, abbiamo aderito a questa progettualità, dando il nostro contributo anticivilizzatore e antitecnologico alla FAI Free. Interessantissimi contributi sulla stessa linea della FAI inglese e di quella messicana e cilena. Tenete comunque conto che le notizie che riceviamo in prigione sono poche e censurate, quindi la conoscenza di quello che succede fuori di qui è limitatissima. Fu l'evoluzione impressa da voi CCF all'internazionalizzazione della FAI ad imprimerle quell'accelerazione che ha fatto nascere in parallelo il concetto di internazionale nera. Il punto di riferimento della metodologia FAI Free non può che essere questa internazionale, con tutto il suo universo di azioni rivendicate e no, di scontri, barricate ed assalti violenti. La nuova prospettiva nichilista, con tutto il suo potenziale anti-organizzatore, è il più grande frutto di questo dialogo attraverso le azioni. Un ruolo importantissimo, vitale, hanno poi coloro che attraverso le azioni, non le chiacchiere, criticano la nostra metodologia mettendo in rilievo il rischio che sempre corriamo, che tutto si riduca ad una sigla. Per evitare questo rischio bisogna sviluppare maggiormente le campagne rivoluzionarie, che troppo spesso rimangono inascoltate dagli altri gruppi Fight Free. Qualche volta invece, spero sempre più spesso, ci sorprendono. Una per tutte è l'operazione Fenice, iniziata in Grecia e diffusasi in mezzo mondo. Qui c'è poco da aggiungere perché in una parte c'è cosa intendeva la vecchia federazione anarchica informale per la sigla FAI, per questo nuovo progetto, cioè non è nemmeno un progetto. Che significato davano a questo acronimo? No, è interessante andare a rileggere questo. Andando a rileggere, secondo me viene smentita anche la natura. Cioè, i compagni delle CCF chiedono adesso la FAI è una rete internazionale, è una citazione. Se vuoi dici in breve come vedi l'evoluzione della FAI e quali sono ora i suoi punti di riferimento. Io secondo me attraverso Alfredo dice grazie a voi c'è stata una crescita per quanto riguarda le azioni e le firme con l'acronimo FAI FRI. Secondo me le stesse CCF, stessi compagni delle CCF si sono allontanati non di poco ma di tanto da quello che era la federazione anarchica informale dell'Evo del 2003, con quel testo e quelle tre cose scritte specifico: federazione anarchica informale e perché deve essere informale. Ora, a parte tutte le critiche che vengono rivolte alle CCF per la sigla ripetibile, molto spesso fatta da gente che comunque è contraria totalmente al modo di pensare dei compagni delle CCF, anche io non mi ci ritrovo in toto, a partire dalla sigla ripetibile, perché cioè, io sono più di un'idea di quella vecchia federazione anarchica informale, come poi ti spiego pure Alfredo, che cioè il gruppo, tu fai parte della federazione anarchica informale nel momento in cui fai l'azione, un minuto dopo è finita. Quindi contraddice insomma l'uso di questa sigla ripetibile come le CCF poi fine, ovviamente ognuno decide di agire e di firmarsi come vuole. A me la scelta dei compagni delle CCF di firmarsi con la sigla CCF in ogni occasione a me non dà noia, a me non dà fastidio. Loro hanno deciso sulla loro pelle, decidono sulle loro azioni. Rispetto per la loro scelta. Però se devo accomunare la sigla CCF a quello che era la federazione anarchica informale di qualche anno fa in Italia, allora siamo ben distanti. Cadere l'informale. E non è che loro hanno continuato quello che era la federazione anarchica informale in Italia, ma l'hanno cambiata, l'hanno deviata su altri, cioè non è senso, non in senso negativo, non in senso negativo, di quello che era, l'hanno cambiata e ha avuto un altro sviluppo, un altro sviluppo, si è estesa molto di più, si è estesa anche con parole che sono lontanamente appartenevano alla federazione anarchica informale, perché cioè parole d'ordine e concetti, ma come quelli che arrivano dall'est, oppure che arrivano dall'est, sempre in Indonesia, sempre dall'est, dell'estremo oriente. Quindi è cambiato tanto. Proprio prima si parlava della New Anarchy, mi ricordo il testo di uno dei gruppi della Federazione Anarchica Informale Indonesiana, in cui diceva inneggiava la morte, la monarchia è morta, l'anarchismo non esiste più. Quello, quindi per me l'hanno cambiato, cioè si è diffuso, il fatto che si è diffuso è diffuso. Grazie alla, forse una cosa si può dire, che grazie alle CCF c'è stato, si è creata tutto intorno anche una rete per quanto riguarda le traduzioni degli attacchi rivendicativi, che hanno fatto in modo che comunque le informazioni e i testi viaggiassero da un paese all'altro, e su quelle basi costruire discussioni, dibattiti, attraverso sempre le azioni. Poi i dibattiti che vengono fare al di fuori dell'azione, onestamente, trovano il tempo. Lasciano, come si dice, trovano il tempo che lasciano, cioè, no, trovano il tempo che vogliono, cioè, insomma, quello volevamo dire, quello. Allora, noi ci ascoltiamo un brano, altrimenti qua non la finiamo più, siamo solo alla metà. Ascoltiamo un brano, loro sono Noise FX, brano è Shoutload, e poi dopo si torna qui con una nuova domanda delle CCF ad Alfredo. Shout, shout loud. Allora, torniamo in diretta con una nuova domanda posta dai compagni del CCF ad Alfredo Cospito. L'anarco-nichilismo è forse la tendenza più calunniata nell'anarchia, tanto dagli anarchici ufficiali quanto dalla propaganda statale. Qual è la tua posizione sull'anarco-nichilismo e sulle critiche che riceve? Prima che rispondo a Fredo, rispondo io. Purtroppo l'anarco-nichilismo è stato odiato per colpa di tre coglioni che hanno fatto un bel po' di merdai sul web prima di sparire nel nulla. E infatti nel nulla, dove loro... Nell'abisso del nulla di cui hanno tanto parlato. Ma proprio nell'abisso. Quel tanto amato abisso ci sono finiti dentro, fortunatamente, e si sono tolti dal cazzo. Allora, dopo la nostra breve risposta, ecco perché è tanto calunniato l'anarco-nichilismo, ora passiamo alla risposta di Alfredo. Per nichilismo io intendo la volontà di vivere subito, ora, la propria anarchia, lasciando da parte l'attesa per una futura rivoluzione. Vivere l'anarchia vuol dire lottare, armarsi, scontrarsi con l'esistente senza aspettare. Solo in questo conflitto si può assaporare la piena felicità con il suo immancabile contorno di rapporti, complicità, amori, amicizie, odi. non esiste altro modo per me di vivere che con soddisfazione e pienezza il presente, la vita. In questo nichilismo si realizza la mia anarchia, reale, concreta, oggi, subito. Il nichilista distrugge, non costruisce nulla, perché nulla vuole costruire. Una rivoluzione creerebbe inevitabilmente altre catene, nuove autorità, nuova tecnologia, nuova civiltà. L'anticivilizzatore non può che essere nichilista, perché è nella distruzione della società che questa nuova anarchia si realizza. Distruggere non perché la volontà di distruzione è anche volontà creatrice, ma perché niente vogliamo più costruire. Distruggere perché non c'è futuro nella civiltà. Non mi sorprende affatto che il nichilismo sia la tendenza anarchica più calunniata dagli stessi anarchici. Nella sua spietata concretezza ci toglie il lieto fine della favoletta della buonanotte, la futura rivoluzione, costringendoci all'azione qui ed ora, facendoci paura a coloro che, invigliacchiti, sono sempre pronti a rimandare lo scontro. Il mio nichilismo va di pari passo con la vita, con l'azione, rigetta il superomismo. Niente a che fare con l'individualismo parolaio del secolo passato o dei nostri giorni. Molto in comune con l'anarchia individualista e anti-organizzatrice di Uomini d'Azione come Novatore di Giovanni Galleani. Poi c'è l'ennesima domanda delle CCF ad Alfredo. Come anarchico nichilista accetti l'idea che la società di massa farà la sua rivoluzione quando le condizioni matureranno? Come anarchico nichilista sono chiaramente contro qualsiasi visione deterministica dell'anarchismo, contro qualunque anarchismo scientista. Non penso che la storia ci conduca per mano verso l'anarchia, al contrario penso che il nostro destino sia sempre quello di andare controcorrente. La società si baserà sempre su qualche tipo o qualche forma di schiavitù. Il solo pensiero che un giorno realizzeremo la società perfetta mi terrorizza. L'anarchia si trasformerebbe in un regime. L'utopia si farebbe distopia. Preferisco tendere all'anarchia in questa mia continua tensione e realizzare la mia felicità. Le condizioni maturano quando la volontà vince la paura. Le condizioni sono sempre mature per un gesto di rivolta. Tanto meglio se poi la rivolta si fa comunità attraverso la complicità con altre individualità. In quel caso la nostra forza si centuplica ed in proporzione anche il nostro piacere cresce. Solo le donne e gli uomini d'azione possono comprendere le reali potenzialità della volontà. Cose in apparenza impossibili vengono realizzate, azioni disperate diventano esempio rafforzando altre volontà. Un anarchico senza coraggio è un anarchico senza volontà. Sa cosa è giusto ma non ha la forza di confermarlo con i fatti, rimane a guardare, al massimo parla, scrive, è più sfortunato degli esseri. Ancora un'altra domanda delle CCF, qual è la tua opinione sulle strutture anarchiche formali, per esempio le federazioni, le quali mutilano la loro pratica e teoria in nome della loro massività e dell'accettazione sociale. Le strutture formali hanno una testa, i dirigenti delle braccia, i militanti delle gambe, le commissioni di corrispondenza. L'informalità della FAI FRI ha nell'individuo la sua testa, nei gruppi di affinità le sue braccia, nell'azione violenta le sue gambe. Non bisogna pensare però che il gruppo di affinità sia un'esclusiva delle strutture informali. Molti gli esempi di organizzazioni anarchiche formali che basano le loro azioni su gruppi di affinità. La FAI spagnola pre-1936, la FIL, con il loro gruppo di azione dopo la vittoria di Franco, eccetera. In tutti questi casi, però, vi era un coordinamento, una linea da rispettare, una direzione politica, la libertà del singolo era limitata. La caratteristica peculiare dell'informalità della FAI FRI è la totale mancanza di organizzazione, direzione e coordinamento. La totale autonomia di ogni gruppo di affinità o singolo. All'organizzazione viene sostituito il dialogo attraverso le azioni, come motore non più la società ma la propria comunità in lotta. La cosiddetta organizzazione informale, come è stata teorizzata in Italia, prevede, volente o nolente, una direzione, degli esperti dell'informalità che conducono le assemblee indirizzando in maniera indiretta i gruppi di affinità. Il più dotto, il più bravo a parlare, il più carismatico, ha la possibilità di imporsi sugli altri. la gerarchia che si forma attraverso queste informalità nella più subdola e difficile da esteppare perché invisibile. La strategia insurrezionale informale classica prevede il rapportarsi con organizzazioni specifiche, leghe, comitati popolari, perché nella sua prospettiva vi è la rivoluzione, la crescita quantitativa. Prospettiva che manca alla FAI-FRI nella sua tendenza antisociale, anticivilizzatrice. In noi non vi è politica, compromesso, accomodamento. In questo modo non corriamo il rischio di diventare classe dirigente. Non sopporterei di fare parte di un'organizzazione perché la mia libertà individuale ne sarebbe limitata. Poi c'è il discorso sulla repressione, è molto più facile smantellare un'organizzazione che 10, 100, 1000 singoli individui e gruppi di affinità che tra loro non si conoscono, ma questo è secondario. Thank you. Allora, la seguente domanda del CCF parte dalla considerazione che oggi in Grecia ci sono alcuni squat anarchici che invece di costruire punti di incontro per nuovi compagni con l'intenzione di agire si mostrano come alternativa ai centri culturali. Qual è la situazione in Italia e la tua opinione sugli squat? Non ho mai avuto una grande simpatia per quelli che in Italia vengono chiamati centri sociali. Negli anni 90 i posti da noi occupati si definivano né centri né sociali, ci ponevamo in modo ludico, esistenziale, individualista, non avevamo una prospettiva sociale comunicativa col quartiere che viveva attorno a noi, miravamo essenzialmente alla qualità della nostra vita, dei nostri rapporti, criticavamo fortemente la militanza. Forse proprio per questo alcuni di noi, fregandosene della comunicazione, esprimevano una forte violenza contro il sistema. Credo che l'occupazione, lo squat, se crea conflittualità, complicità e azioni, possa diventare un posto splendido dove vivere la conflittualità con il resto del mondo. Devo poi dire la verità, negli ultimi anni li ho frequentati pochissimo e le mie complicità le ho cercate altrove. Non si è perso niente, secondo me, negli ultimi anni, perché negli ultimi anni sono quelle che negli ultimi 15 anni sono quelli gli stessi come sono in Grecia, sono alternative un'alternativa ai centri sociali, ai centri culturali, si limitano a concerti, benefit nascosto dietro la voglia di organizzare un concerto, a parte qualche a pochi posti in cui fanno benefit perché ci credono realmente, ma la maggior parte è perché vogliono ascoltare musica, devono passare la serata ad ascoltare musica, non c'è niente di male, però no, nascondono dietro il benefit è una paraculata. Va, andiamo avanti. Detto da uno che ha organizzato concerti per anni qui a Napoli in un posto occupato, però all'epoca erano tutti benefit per davvero. Allora, domanda della CCF. Ogni anarchico d'azione si batte nel dilemma tra l'attività pubblica e legale. Qual è la tua posizione? Sono convinto che le uniche azioni che incidono veramente siano quelle illegali. È solo attraverso l'illegalismo che si può vivere l'anarchia. Ciò non toglie l'importanza dei giornali, libri, opuscoli, manifestazioni, occupazioni. Ma la priorità, l'attività insostituibile, immancabile per un anarchico non può che essere lo scontro diretto con il sistema, l'azione violenta. Il sistema lo sa bene, in democrazia ti lasciano dire quello che vuoi. I veri problemi arrivano quando metti in pratica quel che dici. Non mi trovo d'accordo con i compagni e le compagne che dicono che ogni pratica ha uguale dignità, l'azione violenta ne ha più delle altre. Al diavolo i rischi di specialismo, soprattutto quando l'unico specialismo in circolazione è quello della penna. Domanda. In alcuni paesi d'Europa c'è una tensione conosciuta come anonimità politica. I sostenitori ideologici dell'anonimità politica sostengono che le rivendicazioni e gli acronimi come FAI creano la proprietà dell'azione. Noi CCF pensiamo che le nostre azioni determinino noi stessi e la rivendicazione non è un titolo di proprietà ma un atto di guerra. Cosa ne pensi? La mancanza di acronimi, di rivendicazioni non basta a salvaguardarci dal rischio di autoritarismo e di avanguardia. I compagni e compagne della lettera alla galassia anarchica ci accusano di avere una volontà egemonica, di essere un'organizzazione, una delle tante federazioni anarchiche. Come i magistrati che ci hanno condannato vedono in noi un'organizzazione, un pseudo partito armato. Convinti che il nostro obiettivo sia il riconoscimento da parte dello Stato, fanno di noi una macchietta lotarmatista. A questa loro arguta e granitica convinzione ne fanno seguire altre più propositive ed ottimiste. La convinzione che come per magia basti non rivendicare per far diventare un'azione riproducibile, patrimonio di tutti. Che non dandosi un nome ed un acronimo automaticamente si esca da una prospettiva politica. Che chi comunica attraverso gli strumenti che il movimento si è dato, cioè assemblee, conferenze, giornali, riviste, siti, non incorra in meccanismi leaderistici autoritari e in specialismi di sorta e, ciliegina sulla torta, che non rivendicando i tribunali abbiano difficoltà a reprimerci. Diciamo che questi punti fermi sono la spina dorsale dell'insurrezionalismo sociale classico, come si è diffuso in Italia, Francia, Belgio, eccetera, con i suoi alti e bassi, successi e fallimenti. Tralasciamo tutte le sciocche accuse che questa corrente dell'anarchismo informale nella sua componente italiana ha rivolto alla Fight Free, accusa alla pratica dei pacchi bomba considerata abietta, accuse di voler l'egemonia del movimento e di oscurare le azioni anonime, l'accusa di essere un'organizzazione, un partito e per finire l'accusa di essere un'avanguardia. Le stesse stronzate che la FAI formale ci rifila da 12 anni a questa parte, insulti che non facilitano certo una discussione equilibrata e che non mi sorprendo più di tanto visti i precedenti. Gli stessi compagni e compagne sostenevano qualche anno fa che chi metteva in pratica il sequestro di persona non era degno di definirsi anarchico, per poi indignarsi se degli anarchici in un eccesso di panico con i loro puntini sulle i prendono le distanze dal nostro, cioè mio e di Nicola, sparo di Genova. Trovo difficile rapportarmi con questi compagni e compagne, non tanto per gli insulti, ma perché tali dichiarazioni di intenti qui in Italia, e sottolineo in Italia, sono accompagnate da più di 15 anni di moltissima teoria e pochissima pratica, per non dire dal nulla assoluto, e sarebbe ipocrita da parte loro far finta che non sia così. In Belgio, dove questa visione dell'informalità muove concretamente i suoi passi, i fatti sono evidenti e anche purtroppo le risposte repressive da parte del potere. Per quanto possano dire i sostenitori dell'anonimato, nessuna teoria può darci la certezza dell'impunità, soprattutto quando l'azione da simbolica diventa distruttiva. Non sarà certo il rifiuto di un acronimo, l'anonimità di un'azione a renderci impermeabili alla repressione e a volte non basta neppure la cosiddetta innocenza. E poi, dico la verità, coloro che agiscono con il codice penale in mano mi hanno sempre fatto un certo ribrezzo. Il mio approccio all'azione rivendicata, o meno, è pragmatico. Non ne faccio una questione ideologica di principio, ma di efficienza e concretezza. Io stesso in determinati casi potrei essere portato a non rivendicare. La Fight Free è uno strumento molto efficace dal mio punto di vista. Unicamente uno strumento, uno degli strumenti che la mia comunità, l'Internazionale Nera, adotta nella guerra alla società, alla civilizzazione. Detto questo, ho adottato il metodo della FAFRI perché, contrario a qualsiasi organizzazione, per evitare di essere assoggettato a leadership di qualunque tipo, per bypassare con la comunicazione attraverso rivendicazioni tutti quei meccanismi a rischio di autoritarismo come le assemblee, leghe, nuclei di base, comitati, movimenti, per salvaguardare il mio anonimato e soprattutto per rafforzare il mio potenziale distruttivo attraverso le campagne rivoluzionarie senza limitare la mia libertà individuale. Non conoscendo direttamente gli altri fratelli e sorelle della FAI-FRI, il carisma e l'autorevolezza trovano grossi impedimenti ad imporsi, limitando così notevolmente i rischi per la nostra libertà. Solo i fatti parlano, solo l'azione figlia della volontà conta. Nell'insurrezionalismo classico, alla faccia dell'anonimato, tutti conoscono tutti, le idee, gli spunti si sviluppano all'interno delle assemblee, dando troppo nocivo spazio agli immancabili specialisti della teoria, dell'ideologia. Ma passando le assemblee plenarie, comunicando unicamente attraverso le azioni della FAI-FRI, ci permette di non perdere prezioso tempo discutendo per ore di massimi sistemi con persone che mai si sono sporcate le mani con l'azione e che mai se le sporcheranno, permettendoci in ultima analisi di tagliare fuori dalla nostra vita chi non mette in pratica quel che dice. Oggi sento il bisogno che le energie che metto nell'azione fioriscano, si riproducano, si costruiscano, rimbalzando da una parte all'altra del mondo nuovi percorsi. Con le rivendicazioni le azioni si parlano, si diffondono, aumentano la loro virulenza. La pratica della cosiddetta anonimità dell'azione non mi soddisfa del tutto, per quanto sia rispettabile e piacevole, non rafforza la nostra nostra azione, non apre discorsi alla lunga fiacca, limitandoci, dispendendoci, isolandoci. Riduce enormemente la riproducibilità del gesto che, se non accompagnato da parole, va a spegnersi. l'anonimità dell'azione in una prospettiva sociale ha il senso di camuffamento, si vuole convincere la gente, si cerca il consenso per fare la rivoluzione, ci si finge gente per far diventare la propria azione patrimonio di tutti, perché non essendo stata rivendicata chiunque potrebbe averla fatta. In questo caso un senso forte d'azione non rivendicata ce l'ha un senso tutto politico, sociale, un senso che rischia di fare di noi una delle tante avanguardie sulla piazza. Naturalmente questo non potrà mai essere il mio senso, perché rigetto in toto una prospettiva sociale nel mio agire. L'anonimità dell'azione in una prospettiva antisociale trova il suo senso nel piacere ludico che si prova a far sanguinare ciò che ci distrugge, quell'immensa soddisfazione nel fare ciò che deve essere fatto semplicemente perché è giusto. Non è poca cosa, questa prospettiva egoista fa a pieno titolo parte dell'armamentario antisociale delle pratiche dell'internazionale nera. È stata la mia pratica in passato, potrebbe tornare ad essere di nuovo la mia in futuro. Oggi però la FAI-FRI è la mia prospettiva sul mondo. Il discorso da affrontare oggi non è il rivendicare o meno le azioni, tra l'usare o meno un acronimo, ma tra la concezione politico-sociale dell'anarchismo o concezione nichilista antisociale dell'anarchia. Una scelta cruciale, quella tra anarchismo ed anarchia, rivoluzione o rivolta, vecchio o nuova anarchia, una scelta cruciale e inevitabile. Il discorso anticivilizzatore non può esistere in un'ottica sociale, tanto quanto non può esistere un discorso antitecnologico in un'ottica sociale. Società, civiltà, tecnica, civilizzazione non possono fare l'una a meno dell'altra. Storicamente solo i partiti con il loro armamentario autoritario gerarchico hanno fatto la rivoluzione. Non vi è niente di più autoritario di una rivoluzione, niente di più anarchico della rivolta. La rivoluzione struttura, organizza, si fa civiltà, progresso. La rivolta destruttura, non ha futuro, viva nel presente, sospende le nostre esistenze in un eterno qui ed ora. Non sazia mai i nostri desideri, spingendosi sempre più avanti alla continua ricerca dell'impossibile. Una tensione continua che si nutre della distruzione dell'esistente. Quando parlo di nuova anarchia intendo quell'anarchia che fa tranquillamente a meno del concetto di rivoluzione, di realismo, di politica. Il diavolo in corpo di Bakunin, la follia visionaria di Cafiero, la sete di giustizia di Ravasciolo e Henri, l'odio e la vendetta di Di Giovanni, l'impazienza di Filippi, le poesie il piombo di Novatore, la disperazione sanguinaria di Bertoli fanno tutti parte di questa nuova anarchia. L'internazionale nera, i miei fratelli e le sorelle della FAI-FRI sono l'incarnazione oggi di questa nuova anarchia. È arrivato il momento di prendere atto che siamo altro, che un abisso ci divide dal vecchio anarchismo. In noi non c'è più spazio per le grandi illusioni, rivoluzione, progresso, civiltà. Un percorso diverso, il nostro, rispetto all'anarchismo sociale, realista, razionale, positivista, propositivo, creatore di un nuovo ordine e civiltà. Un percorso diverso, il nostro, che trova nella civilizzazione la chiusura di un cerchio. Un cerchio che non ci porta da nessuna parte se non a vivere pienamente la vita. Definirci come portatori di una nuova anarchia, per quanto ingenua possa essere, ci serve per distinguerci dall'anarchismo politico ed anche da un certo insurrezionalismo sociale che si fa, che sa di ideologia. Poi arriva il momento dell'ultima domanda ad Alfredo da parte dei comandi del CCF. La solidarietà tra gli anarchici d'azione non è solo a parole. Come hanno affrontato il vostro processo gli anarchici italiani e come hanno espresso la loro solidarietà? Ci sono due tipi di solidarietà, una passiva che troppo spesso serve solo a lavarsi la coscienza per la propria inattività e che non colma le distanze tra le parole e i fatti, e poi un'attiva, concreta, reale solidarietà che qualcuno chiama rivoluzionaria, fatta in silenzio, nell'anonimato, in cui solo le azioni distruttive parlano anche attraverso le parole che le accompagnano. Inutile dire quale delle due solidarietà preferisco. In ultima analisi, la miglior solidarietà che io possa ricevere è vedere che la progettualità di questa nuova anarchia, in tutte le sue forme, continua a muovere i suoi passi, indifferente ai colpi repressivi che riceve. Non nego che ogni volta che qualche azione ci ricorda come prigionieri di guerra, sia in Italia che nel resto del mondo, il mio cuore si riempie di gioia. Questa è la mia vita oggi. La guerra continua, mai arrendersi, mai piegarsi. Lunga vita alla FAI-FRA, lunga vita alle CCF, viva l'Internazionale Nera, Alfredo Cospito. E questa era, con questo abbiamo concluso la lunga intervista fatta dai compagni del CCF detenuti tutti nel carcere di Corridalossa ad Atene, ad Alfredo Cospito, che invece è detenuto insieme all'altro compagno Nicola Gaia nel carcere, nella S2 di Ferrara. Io penso che nelle ultime due ci sono pareti di Alfredo che su cui io non mi sento di aggiungere altro. No, assolutamente, cioè l'unica cosa che potrei aggiungere a chi ha detto che... No, perché prima ho lasciato il microfono aperto, ho detto qui non finiamo più. Non è per questo. Non è per questo. Non è per questo, cioè penso che il testo si spieghi da solo. Volevo solo... Finalmente qualcuno che spiega per bene cosa si vuole intendere per nuova anarchia. Sì, in primis, perché su questo insomma ci sono stati dei dubbi o forse soprattutto penso anche delle incomprensioni. No, i dubbi nascono quando la nuova anarchia non viene spiegata bene, quando viene fraintesa, come penso che è stato frainteso molto del insurrezionalismo italiano europeo nei paesi sudamericani o dell'est, viene tutto preso per buono quello che arriva dall'Italia, quando non c'è tanto di buono. L'unica cosa buona che arriva dall'Italia sono le azioni, se arrivano, ma qualche testo, ma chi si è fatto bocca di informale insurrezione, diciamo che non è tutto buono quello che arriva da tutte le bocche. Qualcuno andava bene per un periodo, qualcun altro ne abbiamo già parlato, si è già discusso, ci siamo già tirati merda addosso, continuerò a tirargliela. Sono sempre alla ricerca di una videocassetta. Allora, questo era per oggi quanto riguarda la diretta d'azione di oggi, venerdì 24 ottobre. Ricordo, il prossimo appuntamento è a lunedì 27 ottobre con l'ora legale. Non sa ribrezzo la parola legale, però l'ora legale. E non dimenticatevi l'ora indietro. No, nemmeno noi, così non iniziamo alle 6. È molto facile che dopo il weekend. Per non rispettare l'ora legale. Allora, appuntamento a lunedì, lo ricordo anche per la settimana prossima, si invertono le dirette. Lunedì controinformazioni, riflessioni, provocazioni e musica. Invece venerdì tornerà finalmente Marcello. Non perché io me ne vado. No, perché lei se ne va. Lei tornerà in futuro. No, tornerai ogni venerdì. Cioè per la settimana prossima si termina questo componimento, questo scassa 15, come il giochetto quello con i numeri che... Ma mi spieghi dopo? Poi ti spiego dopo. Quindi ancora per la settimana prossima si invertono le dirette e invece poi dopo si tornerà tutto normale. Normali noi non lo siamo, però tutto normale per quanto riguarda la programmazione delle dirette d'azione. Che dire? Statevi buoni, vi lascio con un brano, Icebreaker Ferruct, e poi dopo il jingle. Das heißt, dir geht's schlecht. Ich bin unersättlich, krieg niemals genug. Fast Radioazione.org. Radioazione.